Lettera inviata a Venezia dalla città imperiale di Augusta, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 1 ottobre 1529. All'eminentissimo signore mio, Giovanni Pietro Carafa, in Venezia. Signore mio onorandissimo, l'animo di questo servo si riempie di gratitudine e commozione per la possibilità che gli si offre di comparire al vostro cospetto. Non dubitate che io possa mancare all'appuntamento. La pace ha reso le strade della Lombardia più sicure, e questo fatto, unito alla premura che ho di incontrare il mio signore, mi farà bruciare le tappe fino a Bologna. Mi piange il cuore nell'apprendere come il Santo Padre Clemente abbia dovuto scendere a un così vile mercato con Carlo, concedendogli questa incoronazione ufficiale in Bologna. La vittoria sui francesi in Italia e ora questo riconoscimento pontificio innalzeranno Carlo V al rango dei più grandi cesari dell'antichità, senza che egli possegga una goccia della loro virtù e rettitudine. Egli comanderà l'Italia secondo il suo volere, e il mio parere è che questo congresso vedrà gli stati italiani, e quello pontificio soprattutto, spettatori impotenti delle decisioni dell'imperatore. Ma tanto basta, vae victis, non altro per ora, nella speranza che Dio misericordioso conceda agli animi devotissimi come quello della signoria vostra la grazia di saper arginare l'arroganza di questo novello Cesare. Proprio a tale proposito, mi permetto ancora di usare la franchezza alla quale la signoria vostra ha così magnanimamente voluto abituarmi, dato che il vagheggiare libero del pensiero, spregiudicato quanto certo di provocare il savio sorriso del mio signore, mi spinge a notare che oggi i nemici di Carlo sono tre: il re di Francia, cattolico, i principi tedeschi, di fede luterana, e il turco Solimano, infedele, e che, se costoro fossero capaci di far prevalere il loro comune interesse antiimperiale sulle diversità di fede, colpendo l'impero all'unisono e concordemente, allora non vi sarebbe dubbio che esso vacillerebbe come una tenda scossa da un turbine di vento, e con esso anche il trono di Carlo. Ma questi occhi sono stati ordinati per guardare alle faccende di Germania, e non al mondo intero, da cui il bisogno di tacere, nell'attesa impaziente di raggiungere la signoria vostra a Bologna e poter riferire di persona della situazione tedesca, in particolare di quegli eretici anabattisti che la signoria vostra ricorderà avermi sentito nominare già più volte in precedenza. Nella speranza di non tardare d'un solo giorno all'appuntamento, bacio le mani di vostra signoria e mi rimetto alla sua grazia. Di Augusta, il primo giorno di ottobre 1529, il fedele osservatore di vostra signoria, Q.